Mi ha raccontato un vecchio pescatore di quei segreti che nasconde il mare, di quei tesori che potrai trovare, basta che tu li voglia immaginare. C'è la balena che inghiottì Pinocchio, una sirena che la tiene d'occhio. C'è anche Capitano Uncino, i giochi d'acqua di un delfino. Ma il mare non è più come una volta, non è più come il vecchio mi racconta. I pesci non sanno più cosa pigliare e anche il mare sta per affogare. È l'uomo che distrugge questa terra e non pensa a renderla più bella. E noi bimbi non c'entriamo niente e vogliamo un mondo sorridente. Se scendi giù per 20.000 leghe potrai trovarci il regno delle streghe, però son tutte quante arrabbiate perché non possono diventare fate. Ma il mare non è più come una volta, non è più come il vecchio mi racconta. I pesci non sanno più cosa pigliare e anche il mare sta per affogare. È l'uomo che distrugge questa terra e non pensa a renderla più bella. E noi bimbi non c'entriamo niente e vogliamo un mondo sorridente. Ma il mare non è più come una volta, non è più come il vecchio mi racconta. I pesci non sanno più cosa pigliare e anche il mare sta per affogare. È l'uomo che distrugge questa terra e non pensa a renderla più bella. E noi bimbi non c'entriamo niente e vogliamo un mondo.